Fabrizio Intonti. Non so voi, ma io quando vado in viaggio o in vacanza da qualche parte, fondamentalmente divido i posti in due categorie. La prima è quelle bello bello, però mo me ne torno a casa mia. E la seconda è quelle però come si sta bene qua. Perché se è vero che ci sono tantissimi posti belli da vedere, posti in cui ti senti un turista appagato, vivi dei momenti di relax, stacchi, ci sono altri posti in cui non ti piacciono solo i monumenti, i musei, i posti tipici da vedere, i ristorantini. Ti piace proprio il posto, ti piacciono le strade, ti piace la gente, il modo in cui parlano, il modo in cui si salutano, ti piace l'aria che respiri la mattina, ti piace quanto è diverso rispetto a quello che fai di solito. Ti piacciono talmente tante cose di questi posti che a un certo punto pensi: e se venissi a vivere qua? Ecco, questa è la tentazione di oggi, questa è la domanda. Qual è il posto in cui avete pensato e se venissi a vivere qua? 800 24 00 24. Seconda settimana di Giro di Vita, il programma che ogni giorno vi racconta storie di chi si è inventato un nuovo inizio e vi chiede anche le vostre storie di nuovi inizi e di nuove vite. Sono le 4:07 del pomeriggio, io sono Achille Corea e quest'oggi parliamo insomma di gente che trasloca magari vicino o in posti non così esotici o magari in un altro continente, come ad esempio ha fatto Ombretta. Benvenuta! Ciao, ciao Achille. Ombretta ha il classico leggero ritardo di chi chiama da molto lontano al telefono, perché in questo momento dove sei? Sono in Kenya. Esattamente in Kenya, un'ora di fuso orario da voi in più, le 5:07 qua. Perfetto. Allora, da quanto tempo sei lì? Ma soprattutto, prima di andare in Kenya, che cosa facevi in Italia? Allora, io sono qui da ottobre del 2006 e prima di venire in Kenya, in Italia, facevo la geometra libero professionista. Ecco, allora, ora non mi fate fare quelle battute da settimana enigmistica, tipo la geometra è una squadrata, una quadrata, cose così. Però la geometra di solito non è una che non è un tipo di persona che dice, beh, un lavoro che adesso prendo, vado in Kenya, viaggio, eccetera. Tu che cosa ci sei andata a fare in Kenya? Ma diciamo che inizialmente io ci sono andata per viaggio, proprio per passione dei viaggi. Ho viaggiato dal 95 praticamente fino al 2006, cercando di scoprire il più possibile. Purtroppo ovviamente la situazione economica non mi permetteva di andare troppo oltre e quindi piano piano mi sono avvicinata al Kenya, fino al praticamente la prima volta sono venuta qua nel 2004. E quanto ci sei stata la prima volta? La prima volta 2 settimane, le classiche 2 settimane di vacanza in villaggio, insomma tutto secondo la norma dei vacanzieri, più che villaggio diciamo in albergo. Poi ovviamente sono stata il più possibile a contatto con la gente del posto, ho girato tanto, ero da sola con amici, quindi non è che ero in coppia, per cui mi sono insomma un attimo data la libertà. Il giorno in cui hai pensato vengo a vivere qui, qual è stato? Diciamo che non c'è stato un giorno particolare, semplicemente c'è stato un momento che ho detto basta, io ho bisogno di fare qualcosa di diverso, di cambiare, e l'unico modo per poter cambiare tutto era quello di andare fuori dall'Italia, di provare proprio un'esperienza diversa, per cui diciamo che il Kenya è stato una meta facile per questo, perché comunque mi consentiva sia di provare a livello turistico, perché comunque sono sempre stata amante dei viaggi, per cui era una cosa che mi appassionava da sempre, e anche per il fatto che comunque c'è una comunità italiana qui, per cui venendo da sola era diciamo la scelta migliore. Mi sarebbero piaciuti tanti altri posti, però diciamo che ho anche cercato di farlo un pochino con la testa attaccata al collo, come ecco, si dice. A proposito di testa attaccata al collo, la geometra italiana che dice vado a vivere in Kenya, cioè tutti gli dicono a fare cosa? Tu con che idea sei andata in Kenya? Ma io inizialmente, come penso fanno un po' tutti, è quello di intraprendere qualcosa a livello turistico, perché comunque il Kenya è il paese africano, diciamo, dove c'è la concentrazione di turisti italiani, tra l'altro, più alta, per cui era, diciamo, la cosa migliore. Un po' difficile, perché comunque, avendo sempre fatto la geometra, non è che mandando curriculum ai tour operator, eccetera, avevo grossissime possibilità, per cui la cosa più ovvia era quello di presentarmi di persona, quindi andare in giro per alberghi e vedere un attimino che tipo di... Tu prima, diciamo, prima di fare questo ti eri licenziata, sei partita così senza rete? Sì, più che licenziata, diciamo, ho smesso di fare la libera professione, quindi ho detto arrivederci a tutti, ho finito il mio lavoro, quello che dovevo finire perché mi sembrava giusto e non ne ho più presi, e ho detto adesso vado e faccio questa esperienza, non è detto che rimango, può darsi che torno, e quindi non mi davo delle scadenze, ecco. Senti, quanto ci hai messo da quando sei partita fino a, diciamo, ad avere una sistemazione vera e propria? Ci ho messo 6 mesi, diciamo che è stato un po' difficiletto, però insomma ce l'ho fatta. Ti facciamo sentire uno spezzone di film di qualche tempo fa, poi ne parliamo. Sono una vecchia pellaccia africana io. Alla guanda, ba! Zibuana. Finse di capire il mio falso Swahili, si chiamava Kangoni, nato a Roma. Per mancanza di lavoro emigrato da poco in Africa. È in servizio, Panunti lo obbligava a parlare da povero negro. Finsi entusiasmo gastronomico e colpì l'aria col pugno chiuso gridando: Yuhu! Fantastico! Tipica cucina Swahili. Non mi stancherei mai di mangiare. Mi vado pazzo. Come si chiama? Un dopo. Ma dopo... Dobolino. Dobolino. Giorgio. Magni più. Allora, era un film del 1978, avrete riconosciuto la voce di Paolo Villaggio, e c'era insomma un'idea a quell'epoca probabilmente dell'Africa molto più selvaggia di quella che abbiamo adesso, anche non essendoci stati, parlo per me e per gli altri che non ci sono stati. Ombretta, qual è invece per te la differenza tra l'Africa che immaginavi e l'Africa quotidiana, il Kenya di tutti i giorni? Ma c'è parecchia differenza, perché comunque, ripeto, il Kenya è comunque un paese tra i più civilizzati qui d'Africa, quindi poi soprattutto dove sono io, che è sulla costa, diciamo che alla fin fine si trova tutto quello che si trova in Italia lo trovi anche qui, diciamo che è molto civilizzato qui, rispetto magari andare un po' all'interno, che ecco che entri nell'atmosfera vera e propria dell'Africa. Quindi comunque sia, basta spostarsi di poco per trovare quello che è realmente l'Africa, quindi queste distese di verde, di palme, di piccoli villaggi, di piccole capanne, di gente che cammina scalzo, che porta l'acqua sulla testa, bambini... Insomma, l'immaginario più classico comunque qui in Kenya, ripeto, bisogna allontanarsi un po' dalla costa, purtroppo, o meglio, sicuramente per il Kenya è molto meglio che la costa sia diventata così, perché comunque veramente porta tanto lavoro. Quindi... Ombretta, senti, ma tu pensi di rimanere per sempre lì? La tua vita ormai è in Africa o c'è un'idea di tornare in Italia? No, diciamo che, ripeto, io non sono di quelle che si programma la vita, per cui finché la mattina mi sveglio e sto bene qui, continuo a stare qua. Se un domani non dovessi più trovarmi bene per qualsiasi motivo, per qualsiasi esigenza, sono disposta a spostarmi altrove senza problemi, che non dico che sia per forza l'Italia. E dell'Italia qualcosa ti manca in particolare? Beh, sicuramente mia madre, che è molto lontana, e quindi ovviamente quella è la mia mancanza principale. Tutto il resto, diciamo che sono contenta di averlo lasciato in Italia, sinceramente. Allora, visto che ti sentiamo così positiva, ti chiediamo 2 consigli per i nostri ascoltatori. La valigia e la zavorra. Allora, Ombretta, contribuisci a questo nostro piccolo manuale autoprodotto. Una cosa che bisogna portarsi quando si fa un giro di vita come il tuo è una cosa che bisogna abbandonare. Partiamo da quello che serve. Beh, sicuramente una cosa che io ho imparato è che bisogna assolutamente non perdere la propria personalità, quindi comunque sia come si è, bisogna andare ovunque e solo così uno si trova bene, perché altrimenti se si cerca di essere diversi da quello che si è, non stai bene da nessuna parte, secondo me. E invece cosa bisogna abbandonare prima di un viaggio così? Sicuramente cambiando così tanto, cioè dall'Italia, comunque un paese occidentale, a un paese africano, sicuramente l'essere occidentale, perché comunque tante cose bisogna impararle qui, ci si deve adattare, perché comunque lo stile di vita è diverso e la cultura è diversa. Perfetto. Quindi, Ombretta, dici dove sei in Italia. Per me. Dici dove sei di preciso in Kenya, così se qualcuno viene ti cerca. Allora, io sono a Watamu. A Watamu, me lo segno. A 25 chilometri circa a sud di Malindi. Perfetto, grazie Ombretta per aver rappresentato la nostra tentazione. Cosa dire? Buon Kenya. E se lo facessi io? Allora, ovviamente un viaggio, un cambiamento, un posto di cui vi innamorate può essere anche non così lontano, però siccome l'Africa ci stuzzicava, noi volevamo saperne di più parlando al telefono con Davide Bomben, che è il presidente dell'Associazione Italiana Esperti d'Africa. Benvenuto. Buongiorno Achille, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, secondo la tua esperienza, sono molti gli italiani che hanno, la voglia di andare in Africa e quest'idea di, emigrare al contrario, se vogliamo? Assolutamente sì, in circa 15 anni di esperienza nel continente nero ho incontrato veramente tantissimi italiani con la voglia d'Africa e da un anno a questa parte, da quando abbiamo aperto il supporto a queste persone, a questi italiani che vogliono andare in Africa attraverso l'Associazione Italiana Esperti d'Africa, riceviamo una decina di richieste di supporto al mese. Senti, io penso all'Africa come molti... Ah, mi abbassi la radio, per favore, Davide, perché sento un rimbombo. E rispetto, all'Africa, io penso sempre, o come molti altri, che si vada a fare lavori come o il volontariato, il sociale, o il lavorare nel turismo. Quali sono invece le possibilità in generale? Ma sicuramente il volontariato è un settore importantissimo. Lasciamo per un momento da parte le varie ONG. Ci sono tantissime possibilità, dal supporto a dei progetti per la salvaguardia delle specie a rischio, come Cheetah Conservation Fund a Windhoek in Namibia, piuttosto che Let's Free Endangered Species sempre in Sudafrica, ci sono tantissime di queste possibilità, o ancora l'aiuto e supporto ad esempio dei bambini. Questi possono essere orfani piuttosto che bambini, con famiglie con dei problemi, ci sono queste possibilità. E dimmi, ora ti faccio una serie di domande, vorrei delle risposte brevi perché proprio anche secche. Qual è il posto, secondo te, in cui gli italiani vorrebbero andare di più nel continente? Ma ultimamente con i campionati del mondo di calcio sicuramente il Sudafrica è diventato importante, ma in generale tutti quelli che sono i paesi dell'Africa australe. E invece qual è un posto sottovalutato che tu diresti perché non cercate di puntare su questo luogo? Botswana e, se mi posso permettere, anche Zambia e Zimbabwe, probabilmente perché la gente ha paura dei costi oppure per la malaria, sono paesi meravigliosi. Ecco, come, non so, tu che conosci bene anche le comunità di italiani all'estero e i vari viaggiatori, un posto che secondo te è più difficile del previsto e un posto in cui secondo te è un po' più facile per un italiano ambientarsi? Ma sicuramente la Namibia e il Sudafrica offrono opportunità per tutti gli italiani, soprattutto nel settore del turismo. Luoghi, invece un po' più difficili possono essere appunto la Tanzania piuttosto che l'Uganda e Ruanda, dove non solo c'è l'aspetto economico, ma bisogna anche conoscere le varie dinamiche sociali ed economiche interne per potersi ambientare. E al di là del sociale di cui abbiamo parlato prima, se tu fossi un italiano che vuole andare a vivere in Africa, per che tipo di lavoro e di professionalità ti proporresti? Quello che ho fatto io, più o meno 15 anni fa mi sono trasferito in Africa, ho iniziato a fare prima il traduttore, poi con la formazione la guida e da 3 anni a questa parte sono formatore delle guide parlanti italiano per alcuni paesi appunto africani e per alcuni tour operator locali. Bene, grazie Davide, altre informazioni sicuramente sul vostro sito che è espertiafrica.it, 800 24 0024, per dirci in quale posto avete pensato io vengo a vivere qui. Allora, io intanto, prima di prendere una telefonata, cito Lucilla, che sul nostro Facebook, che è facebook.com/girodivita, ha detto: Boston, bella, elegante, tecnologica, molto europea, ma con i vantaggi degli Stati Uniti. E intanto sentiamo Rossella, pronto? Ciao, buongiorno a tutti. Allora, Rossella, tu non hai un luogo esotico dove vorresti andare a vivere? No, non è esotico, ma è un luogo dell'anima, secondo me. Proprio dove, come dicevi tu all'inizio, quando ci sono stata la prima volta, ho detto: io voglio stare qui, basta Milano. Qual è questo posto? È un paesino delizioso che sta nell'entroterra di Piombino, in Toscana, si chiama Suvereto. E qual è la particolarità? Sono adottata da questo luogo, ormai è qualche anno che ci torno, purtroppo solo per le vacanze estive, perché il sogno è quello, ma poi sai, con la vita reale devi fare a pugni e Milano è il lavoro, no? E tu non hai pensato a un modo, a un'attività che potresti svolgere anche lì? Guarda, ne ho pensate tantissime, tant'è vero che quando vado giù sono felice di mettere a disposizione le mie competenze alla comunità. Tant'è vero che sono già riuscita a fare delle cose con loro, sento che potrei essere utile, potrebbe essere un utile scambio di culture, non so come dire, io vengo da una grande città. Cos'è che ti piace, scusami, cos'è che ti piace di Suvereto? Qual è la cosa particolare? Guarda, Suvereto è un paese con il centro storico medievale, come ce ne sono tanti in Italia, in Toscana è pieno, però ha una dimensione non snob innanzitutto, mentre purtroppo ci sono tanti luoghi del genere che sono diventati, no, penso a Capalbio piuttosto che sì, altre moda, situazioni. Suvereto ha ancora invece un cuore genuino. Beh. E le persone sono belle, io quando passeggio per Suvereto ci sto bene, mi sento bene, mi piacciono le sue strade, mi piace il suo clima, mi piace la vicinanza con un mare stupendo, anche se non è sul mare, e ci sto come vorrei stare tutto l'anno quando vado lì, non è un luogo di vacanza, è un luogo di serenità per me. Va bene, e non hai veramente proprio un progetto, non c'hai una scadenza? Guarda, mi dici? Ogni anno vado lì, è fantastico, perché però poi mi sembra di essere tanto, sai, la milanese che arriva lì e dice: vengo io ad insegnarvi come si vive, quindi mi censuro parecchio perché non vorrei essere vissuta in questo modo. È vero che ad esempio lì ci sono tante cose che noi diamo per scontato, noi appunto milanesi, metropolitani, e quando ad esempio appunto, non so, il lavoro in internet piuttosto che l'organizzazione di eventi culturali, tutte cose di questo tipo di cui io mi occupo normalmente, lì sarebbero veramente una scoperta, nel senso che se ne producono tanti anche lì, però il rapporto è diverso, è molto più difficile, non so come dirti, no? Sì, le cose sono meno scontate e quindi non dico che sarebbero vergini come rapporti, però più originali, sì, sono più originali e c'è tanto da portare per chi ha esperienza. Guarda, una cosa che dico sempre, non so se io fossi nata lì sarei contenta di essere sempre stata lì. Ah, guarda, quello te lo posso dire come esperienza, che vengo da un paese di montagna e ogni volta che sento qualcuno che dice voglio andare a vivere in montagna io penso sì, vabbè, io ci sono stato. Grazie a Rossella per questa esperienza. Giovanni, pronto? Sì, ciao, sono Giovanni. Cosa volevi dirci? Più che dire dove mi sarebbe piaciuto vivere, che vabbè, di posti ne ho visti molto, no? Volevo dire invece la mia su quello che in un certo senso mi è sembrato di capire a proposito dell'Africa, del Mal d'Africa, no? Adesso non vorrei essere frainteso, non vorrei che prego, qualcuno prego. Se la prenda. Di, sintetizza, non c'è problema, di. Però la mia impressione, spesso e volentieri, da tutti quelli che, da tutte le esperienze che ho visto io in Africa, no? Io sento male, non so se voi mi sentite no, bene. No, vai, tranquillo. Comunque, è che spesso e volentieri il Mal d'Africa è un po' quel trovarsi in un ambiente dove tu conti, ma non conti perché tu sei bravo, tu sai fare, tu... Conti perché rispetto alla cultura e anche l'economia locale conti, Quindi anche uno che in Italia, voglio dire, si troverebbe essere, tra parentesi, un nessuno, non si offende a nessuno, per l'amor del cielo. Ho capito cosa dici, è un po' come decidere di fare il fuoriclasse in Serie B, con tutto il rispetto, invece che arrancare in Serie A. Ho capito benissimo, sintetizzo per questo. Renato, pronto? Pronto, sono io. Ecco, dove vorresti andare o dove sei andato? Ma io per una ventina d'anni ho fatto il giro, giravo l'Italia sempre come sto girando adesso come responsabile commerciale, e mi ero imposto una volta al mese di andare in montagna. Dato che vedevo tutti i giorni gente, ero sempre in mezzo al traffico, una volta al mese avevo bisogno di spurgare. E quindi mi rifugiavo nelle Dolomiti, perché girando poi per lavoro anche tutte le Alpi avevo trovato un posto che mi era piaciuto e pensavo di trasferirmi. E l'hai fatto? Per un paio d'anni ho provato via internet a portare mail, mandando mail eccetera, a cercare lavoro, e non ci sono riuscito. Poi quando ho compiuto 50 anni di punto in bianco ho deciso che forse l'unica cosa, se volevo andare, era andare. Quindi ero in un appartamento in affitto, ho chiuso l'appartamento, avevo un lavoro da 10 anni con un'azienda con cui andavo benissimo e mi sono licenziato, e in pieno agosto, periodo del mio compleanno, sono andato su, ho cercato casa, dopo 3 settimane l'ho trovata. E in sintesi, che siamo quasi in chiusura, che cosa fai adesso di lavoro? Praticamente sono sempre responsabile commerciale di un'azienda, ho trovato lavoro a Cavalese, appunto dove mi sono trasferito, e l'unico modo che io posso sempre dire è provare. Buttatevi e imparerete a nuotare, se è questa la cosa che capisco. Grazie Renato, siamo quasi in chiusura. Le grandi domande della seconda vita. Ho giusto il tempo di dirvi che anche questa settimana noi vi lanciamo una grande domanda della seconda vita. Questa settimana è: che lavoro vorreste fare per svoltare? Se doveste lasciare il vostro mestiere per farne un altro e per iniziare una seconda vita, che lavoro vorreste fare? Il primo che ci ha risposto su Facebook è Mark, che ha scritto: il giornalismo da viaggio, quello dove ti pagano per dormire gratis negli alberghi fighi, mangiare gratis nei ristoranti fighi e uscite gratis nei locali fighi. Beh, non so se funziona proprio così, però grazie Mark. Rispondeteci anche voi su Facebook Giro di Vita oppure a girodivita@radio24.it. Ringrazio i moltissimi che hanno chiamato oggi, però dobbiamo chiudere qui. Ringrazio Fabrizio Intonti che mi ha accompagnato in questo viaggio, ringrazio anche Valerio Rocchetti che si è occupato della parte tecnica. Un giro di vita completamente diverso domani dopo il GR delle 16. Ciao a tutti da Achille Corea. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.